Il 31? 31. 31 marzo 2010. Allora, oggi volevo affrontare in modo il più organico possibile, o comunque più esplicito, più esplicitamente, il problema della verità. The truth. Di Wahrheit, la verità, la verità. E il problema della verità, i suoi rapporti, ritorneremo sul tema del linguaggio. Ci porremo la domanda, intanto cercheremo di chiarire quali sono le posizioni generali dell'universalismo e del relativismo nei confronti della verità, e poi, il rapporto con il linguaggio l'ho già detto, e poi ci chiederemo l'origine di questo problema della verità, cioè perché, come mai il problema della verità è così presente in qualsiasi cultura e come mai nel corso dell'evoluzione di tutte le culture c'è questo attaccamento. Questa continua ricerca della verità e soprattutto dei suoi fondamenti, cioè di quanto sia fondata o di come sia fondata la verità sulle cose e sugli uomini. Allora, la prima cosa che ti possiamo chiedere è la verità è un problema ontologico o è un problema epistemologico? La verità attiene alle cose, allo stato di cose del mondo, o attiene alla conoscenza che gli esseri umani hanno del mondo? È plausibile chiedersi questo? Sì. No, sono un po' fortunato che sono lì. Qualcuno potrebbe dire che è un problema fasullo. È la stessa domanda che ci siamo fatti la prima lezione. No, sempre quella, non potete pensare che mi ripeto la di nuovo tre volte. Ovvio che era questo problema. Però questa volta parliamo del concetto di verità. Facciamo un gioco, vediamo. Ognuno di voi prova a dare una definizione della verità. Che cosa è la verità? Come si può definire la verità? Ogni essere umano, tutti noi abbiamo a che fare, giusto, tutti i giorni con un problema. Se è vero, è falso, dice. Non hai pagato il caffè l'ultima volta? No, è falso, sì, è vero, non hai pagato. Dice, ma è vero o è falso? Dice, ma è vero che Filippo si è scritto la batteria? Sarà vero, sarà falso. È vero che tu. Ah, ecco lì, mi sono dato magari. Vedete che lì ti becchi il testo. No, tu vuoi stare lì tanto più poco, però. Sapete che con la schierina, questa è schierina, quindi non è più il gesto di cosa più io stavo paragonando il calcio puro, CA più 3. Sbarinato. No, c'è ancora un po'. Marta, comincia tu. Secondo me la verità è ciò per cui l'uomo ha diritto di conoscere le cose e di avere l'esperienza all'interno del mondo. Che complicazione, la verità è ciò per cui l'uomo ha diritto? No, al potere di avere potere. La conoscenza nel mondo, di andare avanti nella propria esperienza, nella propria formazione, per un suo concetto di verità. Mi pare un po' circolare come definizione, perché hai messo verità in fondo pure. La verità è ciò, dalla prima parte della tua frase sembra che la verità sia una specie di precondizione della conoscenza, giusto? La verità è ciò per cui l'uomo può... No, è la ricerca della verità che muove l'uomo. La ricerca della verità, ok, va bene, allora va, io però non vi ho chiesto una definizione di ricerca della verità, una definizione di verità. Di verità, per ora non lo so, nel senso c'è il dubbio di sapere quello che può essere, cioè quelli che possono essere i motivi che mi danno di credere che quella è la mia verità. Possa essere un universalista, che possa essere un cristiano. Dove la metti? Qua o là? Preferenzialmente, da quello che hai detto adesso, la metti sotto l'ontologia o sotto l'epistemologia? La metteresti? O da tutto il là? Ma secondo me è dal punto di vista dell'ontologia, perché la conoscenza poi è quello che ti dà. Uno, tu. Ma... Tu cosa ti chiedi alla metà? Io stavo pensando, grazie. Ma io stavo pensando, non lo so, una situazione in cui tantissime persone pensano che una cosa sia vera e allora diventa vera per tutti. E, mi sembra una cosa in divenire, non lo so, mi sembra una cosa in divenire. Questa è una definizione sociologica della verità, è la stessa cosa che dice Mosse sull'arte. Cos'è l'arte? Si chiede Mosse e risponde, l'arte è ciò che ogni gruppo sociale di volta in volta decide che sia arte. So che qualcuno chiama arte, Abbiamo cominciato adesso, ma comunque, grazie, lascia qua, li facciamo durante la cosa. Ci stiamo dedicando al problema della verità, ci stiamo chiedendo se lo mettiamo sotto la categoria dell'ontologia, preferibilmente sotto la categoria dell'ontologia o dell'epistemologia, e ci stiamo chiedendo che cosa... Sto chiedendo ad ognuno di voi di darmi una definizione di verità, sinora ne ho avuto una piuttosto confusa, che non si capisce bene, con sospetti di circolarità da parte di Marta, mentre Gassia mi sembra più proclive verso, non è che io pensi se ti chiamo proclive, ma... Non so neanche cosa vuol dire. Inclinata, hai l'inclinazione, sei tendente, sei proclive, fino all'inclivio, sei proclive, tendi verso dare una definizione, diciamo, sociologica di così della... con verità, perché sono tante persone che dicono che una cosa è verità. Tu ti chiami? Silvia, che cosa dici? Cosa puoi dirci sulla verità? Dove la metti, scusami, ragazzi, dove la metti? Più qua o più là? No. Non lo sai, in mezzo. In divenire. È una deleziana la nostra Gaccia. Deleziana, segui Deleuze, il filosofo che più di altri nel Novecento ha esplorato il concetto di divenire. Silvia. La verità, non lo so, secondo me è stata più la scusa della nostra ricerca. La scusa della nostra ricerca. Continua questa, già la seconda volta che compare, che la verità sia praticamente la causa. No, è ciò che rende possibile, una condizione di possibilità, una condizione di... Non è tanto ciò che si cerca, si dice, ma... più la ricerca in sé della verità. Quindi tu la metti qua o là? Ragazzi, ma se uno mi dice che la verità è la condizione di ciò che si ricerca, ripeto che è circolare in questa condizione, perché se mi dici che la verità è la condizione per la ricerca della verità, questa una definizione si chiama circolare, perché comincia da una cosa e poi definisce qualcosa con quello che ha detto prima, che non è tanto. Ma la cioè, superiamo che sia superato. Se è qualcosa che prevalentemente riguarda la verità dell'uomo, sarà dalla parte del mondo o dalla parte dell'uomo? Dalla parte del mondo. Beh, sì, cioè anche la Paola che hai detto tu prima tenderebbe a piazzare la verità sotto la categoria, cioè nell'arcipelago, nel campo di influenza dell'epistemologia, più che dell'ontologia, no? Da quello che mi avete detto, in questo modo. Però tu inconseguentemente non l'hai voluta piazzare di là. No. Nonostante che quello che hai detto tendeva più a metterla sul piano epistemologico. Definiamo meglio ontologia e epistemologia. Ah, ontologia, tutto ciò che riguarda il mondo, tutto ciò che riguarda ciò che sta fuori di noi. Epistemologia, tutto ciò che riguarda le modalità della nostra conoscenza del mondo. Oggetto, soggetto, mondo, uomo. Beh, insomma, è un po' così, non siamo filosofi di professione, possiamo accontentarci di qualche, di una prima definizione un po'. Però insomma è chiaro, noi siamo dentro la tradizione occidentale, siamo abituati a fare, no? A fare il dualismo uomo-mondo e fermare il mondo. A te, che sei? Sentiamo cosa dice. Non so, per me c'è la verità, è qualcosa che c'è, cioè, per un individuo è vero. È già la verità, cioè è completamente individuale. Mm. E se una cosa per te è vera, esiste già, è importante che sia per te. Se è vera, esiste. La verità è la garanzia dell'esistenza di qualcosa. Per me. Dovramente. Tu sei nuova, ma cosa sei? È l'essenza della vita. Madonna, l'esistenza della verità. Ma è vero, ho appena sentito una parolaccia. Questa cosa l'essenza è una parolaccia. Però ma è che l'uomo si basa, cioè vive per la verità. No. Vabbè. Non vive per mandare, non si sì, però è la ricerca della verità. Si basa, no. Anche boss. Sei ottimista. Dove la metti? Qua o là? In centro, anche te, perché sei una che non si vuole compromettere troppo. Alice, hai capito ciò? Stiamo cercando di definire ciò per ognuno di noi, cosa è la verità, e se la situiamo preferenzialmente nel polo ontologico o nel polo epistemologico, dalla parte dell'uomo, del mondo e dalla parte dell'uomo. Dici cosa pensi che sia secondo te. No. Ciò che è giusto. Questa è la prima volta che in una definizione che noi siamo incerti se riguardi l'ontologia o l'epistemologia entra l'etica. Perché dici la verità, ciò che è giusto. È un ampliamento del discorso, no? Ciò che è giusto. Dovrebbe, certo. Quindi tu vedi una coincidenza tra la verità e la giustizia. Dove la metti? Non la metterei, l'ho già per forza, spero anche di là. Però speri anche di là, quindi in mezzo pure tu la metti. No, la metti dove fa. Chi fa questa scelta viene messo in mezzo, perché vuol dire che riguarda tutte e due o una situazione intermedia. Dimmi il tuo nome, già che sei di nome, non mi ricordo. Luca. Luca. Allora, sarei che la verità per l'uomo è solo riferita al passato. Di conseguenza l'uomo non ha la verità, quindi è sotto l'ontologia. Cioè deve esistere una verità futura per forza, ma l'uomo non la possiede, non la può possedere, dunque la verità non è per l'uomo. Bisogna aspettare che si riveli. È interessante, dice solo il passato. Quindi la metti di sicuro nel campo ontologico. Va bene. Fabio. so. Non lo sa. Perché secondo me non si parla mai di verità. Non si parla mai di verità? No, perché tutte le volte che si parla di verità si parla invece di vita, di condizioni, di relazioni, di un insieme di cose che si pensa di parlare di verità, ma in verità di verità non si parla mai, in quanto la verità è un po' difficile di scrivere. Allora, qui c'è la proposta che la verità sia uno schermo, sia un fatto che sia qualcosa di cui la gente crede di parlare, ma tu dici che in realtà non parla di verità. È impossibile parlare di verità. Allora, allora hai una posizione sulla verità, allora sei chiaro sulla verità. No. E diceva anche a noi. È difficile parlare. È difficile parlare. È difficile descrivere. Però, comunque sia, in determinati discorsi sembra acquisire uno sfondo, ma è difficile arrivare a questo sfondo, anche perché parlando di verità, se si cerca di parlare di verità, in verità si coinvolge in una serie di argomentazioni che invece riguardano più che alla vita, alle condizioni, alle relazioni, a tutto un insieme di condizioni che possono tentare la verità, ma... Quindi tu la stai cercando di spostare, qualcuno l'aveva già, più simile alla no, la sua, la questione del passato e più... Quindi tu insomma dici che l'appartenenza della verità a uno di quei due campi, ontologia e epistemologia, in realtà è illusoria, perché tu supponi che si parli di verità più... nei riguardi della pratica, no? Quando dici vita, esperienze di vita, condizioni, eccetera, stiamo parlando della pragmatica, cioè delle azioni umane, più che del linguaggio, o dell'etica, o del modo in cui ci si deve comportare. Quindi tu mi dicevi che stai cercando di spostare, un po' come fatto lì. I valori sono incondizionati, cioè sono condizionati, quindi no. È un po' difficile. La tua decisione l'hai data, quindi sì. non la metteresti né qui né lì né neanche nell'etica, però no, perché non funziona. Va bene, dove dovete la croce per te? Io che sei, no, però chiedo, io segno solo quello che voi mi dite, non decido io che dove metterla. Tu puoi anche dirmi che non ti sta bene nessuna di queste tre posizioni, ne facciamo una quarta. Facciamo... Qui è l'esodo, qui è la gente che dice no, non mi sta bene, è possibile, no? Che uno recalcitri a farsi ingabbiare da me in questa... Sto facendo la parte del pensiero occidentale in questo momento. Che vuole sempre frame. Un frame però Roger Rabbit. Ragazzi, nessuno uccide Caterina Caselli qua, La verità mi fa male. Aspetta che qualcuno giudicare. Fabio, ti metto qua l'ufficio, perché hai deciso di mettere in discussione tutto. Tu sei? Alessandro, parla, dici. Non so, c'è un... La sua verità comunque è condizionata. Sì, la verità è condizionata. Il nostro strumento è il linguaggio, attraverso il linguaggio non possiamo raggiungere, non possiamo concepire la verità. Penso che non. Credi che? Non so, non esista. Hai troppe cose. Hai troppe cose, non va bene. Cioè, più che altro metterei nel ricordo del perché, nel senso. Del perché? Cioè, perché? Quanti problemi ci ha già creato questa ricerca? Va bene, ok. Però insomma, la verità, cioè, tu sei il più, finora sei il più, sei ancora più radicale di me. Cioè, dici che la verità non esiste proprio. No. Ci sono un po' di condizioni di... Cioè, nel senso, ti uno schiaffo a Fabio che mi fa male. Nel senso, questo è vero, la verità che faccio, la verità, nel senso... L'azione di schiaffeggiare Fabio. È vera o falsa? Si può dire che è vera o falsa? No, è un'azione. Oh. sarà il resoconto di questa azione. Cioè, allora io rispondo qua e dico, Alessandro ha tirato uno schiaffo a Fabio, questa frase è vera o falsa, cioè il racconto che io faccio, non lo schiaffo in quanto tale non è neanche una faccia, eh. Io cammino, è vero o non è vero il fatto, è vero, è vera la vostra asserzione sul fatto che io cammino, no? O no? O il fatto che io cammini si può dire che è vero. E quindi esiste solo la verità ai vostri. Ai vostri. Cioè, che è vero una volta che... Sia pure passato di un secondo, certo, tu dici. Però dopo esiste, cioè, è realmente accaduto in passato. Visto che tu sei affezionato a questa tua intuizione, non te lo dico di nada. Voglio dire, va bene, sì. Credo pubblicare tante cose. Va bene, ma comunque sia, ci crea tanti problemi, là, ma prevalentemente dove ti pare che va, che faceva la messa? Dell'esodo, pure tu, perché ti chiedi il perché. Anche lui, anche Alessandro, Alessandro è il primo che dice che la verità è soltanto un interrogativo, quindi in pratica dice la verità è un interrogativo. Tu ci vuoi dire qualche cosa o come pensi del brigato di dirci cosa pensi che sia la verità? Secondo me la verità precisa. La verità è? Processi naturali. La verità è qualcosa che ha a che fare con la natura, quindi qualcosa è vero quando coincide con la natura, vedi un po', questa è, quindi dall'Oriente che perle di saggezza che ci arrivano. La pensi di metterla dalla parte del mondo? Sì, dalla parte del mondo, perché dice, certo, se uno che dice la verità è la coincidenza con i processi naturali, beh, questa è una bella intenzione. L'abbiamo solo messa un po' meglio come italiano, ma la verità è la coincidenza con i processi naturali. Il problema è conoscerli questi processi naturali, che non è così facile. Però sì, grazie. Tu sei? Il tuo nome non mi ricordo? Mi chiamo Zico, cognome. Sì. Ma il nome qual è? Zico? Non è Ho. Ho. Ok, Ho, grazie. Dici la tua idea sulla verità. Anche secondo me la verità è lo giusto. La verità è ingiusta. Qui, cioè, bisogna scrivere questa parola qua, perché è la seconda volta che compare. C'è una... qualcuno vede un legame tra verità e giustizia. Ce lo vuoi spiegare meglio o lo dai così? È un assioma, è un postulato, è una cosa che ti è. E quindi? Nel mezzo, pure tu, certo. La giustizia è qualcosa che dovrebbe essere. Ma noi no. Grazie. Per me, non conoscendo la, cioè non sapendo dare una definizione di verità, è qualcosa che non si conosce, che fino adesso... La verità è l'ignoto. Sì. Ma prima o poi qualcosa di questo ignoto dovrà essere noto, no? Fino adesso pure no. Secondo me non è venuta grande la verità. Ma di che siamo per me? E in generale, secondo me è una cosa che non è nota. L'uomo parla da centinaia di anni da... Appunto per questo è una cosa che secondo me non è ancora venuta fuori. E parla continuamente, ma non riesce a dare una risposta. Secondo me è venuta fuori sinora, è sua che venga fuori fra un po', Perché se no... Non ce l'ha fatta Aristotele, non ce l'ha fatta Leibniz, non ce l'ha fatta Spinoza, non ce l'ha fatta Kant, non ce l'ha fatta Hegel, ce la possiamo fare noi? No. per quanto, insomma, io c'è una cosa con il salto di questa. Ho capito, ma è un ignoto che riguarda prevalentemente l'essere nuovo. Il soggetto. Il soggetto. Epistemologico. Me è una cosa che dà conferma all'uomo dei suoi pensieri, la verità. Cioè quando la maggior parte delle persone o comunque sono coinvolte condividono la stessa opinione, viene considerata verità. Allora, in parte è chi è che ha tirato fuori la verità sociale, mi ricordo tu. Infatti io in parte è simile a questa. oggettiva sono della dell'idea che non esista una verità, è una cosa sociologica. Però prendi atto del fatto che è un criterio utilizzato dagli esseri umani. Quindi, allora, quindi, diciamo, è una variante un po' più ricca della, del controllo di verità. Quindi, non l'avrei mai detto, ragazzi. Finora epistemologia batte ontologia 4 a 3, però ovviamente, come sempre, hanno vincono quelli che non hanno votato, come alle ultime elezioni. Intanto potevano andare a votare e stavo con i vincitori anch'io, sono convinto all'ultimo momento. Non ho votato di estrochisti, caro Fabio, no? Assolutamente no. Ho votato gli unici che hanno qualche pensiero in testa, ma che in Lombardia purtroppo per me si presentavano molto contenati. Ho votato i vendoliani, dovete voto, non posso certo votare i salvomisti. Allora, siamo arrivati a Simona, sì. Tu sei? Il nome che chiama. Grazie. Ma che vita ha scritto, ragazzi? Ha affidato alla pagina la sua. A due cose, diciamo, potrebbero essere. Il desiderio umano di pensare che ci sia qualcosa di cui non si può dubitare, oppure un termine che si utilizza per aggiungere valore a una frase che non si usa. Un termine per aggiungere valore, allora la prima definizione, ma sono la stessa cosa o due cose possibili, due cose simili, non sono tanto simili, Allora la prima è la verità come desiderio, giusto? No, il desiderio, di attrarre qualcosa che sia sottratto al dubbio, dice, giusto? Certo, diciamo vero. Mi sa che confondi il fatto con il processo, però è un tentativo di rendere processuale questa verità, no? Di non intatolarla, di un desiderio. Se no invece la seconda è? Ma un termine che dovrebbe essere inserito nella frase in modo tale che, insomma, se non posso cominciare questa frase. Definizione radicale, definizione linguistica della verità, verità in termine, un pezzo del linguaggio, non è? Quindi non è nulla di tabù oggettivo per te. Sì, l'ipotesi per me ha più senso così, nel senso che è un termine, poi si può indicare una tendenza casomai, cioè che ci possa essere qualcosa a cui vedere qualcos'altro. Sì. Comunque è un termine di per sé già quasi assoluto, nel senso, non è? È abbastanza assoluto. Quindi da parte la metti. Ragazzi, l'epistemologia la parte alla grande. Tommaso, detto. No, che no, ti ho detto, siccome eri via, ho detto. Aspettiamo che so. Non lo sai. La verità vorrebbe essere realtà parlata. Realtà parlata. Secondo me. Vabbè, non esiste. Quindi è qualcosa che ha a che fare con il linguaggio pure puro, secondo te? Sì, sì, completamente. Realtà parlata. E perché non esiste se parlo? Il fatto che io parlo è un fatto, o no? Che noi parliamo. Ah, vabbè, l'atto di parlare in sé rientra nella realtà. Di parlare di qualche cos'altro, no. Quindi l'accoppiata linguaggio mondo che il concetto di verità tenta, secondo te, è nella fondamento. Allora, realtà come... Beh, segniamo le cose più importanti che sono uscite finora, Allora, una la mia scritta sopra è quella della giustizia. La seconda cosa che sta uscendo è, piano piano, ma sta uscendo, è un accoppiamento tra verità e linguaggio. La verità è o un termine, o una funzione linguistica, o un atteggiamento del linguaggio nei confronti delle cose. Ma va bene, vuoi mettere una crocetta da qualche parte? Non so. O sei un ebreo dell'Esodo. Esodo è una critica radicale, però vuol dire praticamente il problema è mal posto, non posso scegliere, tantissime volte, sapete? quando, questo è uno degli escamotage più semplici, no, però più diffusi, che avete appoggiato di mano quando avete una discussione e non sapete bene che cosa dire, o pensate che il vostro opponente vi possa dire, il problema è mal posto. Ed è una roba che in genere vi salva, poi dovete saperlo gestire dopo, però sono tanto. Va bene, come avete detto, rimanete voi, che siete aperti. Avete capito ciò? Forse più o meno, in caso di dare una ho chiesto a ognuno di voi di dare una definizione, cosa pensa che sia la verità, se la mette più e dà questa definizione, se la situa più sul piano della ontologia, cioè degli stati di cose del mondo, o della epistemologia, cioè dei processi di conoscenza dell'uomo, o se è qualcosa che ha a che fare con tutte e due, oppure se il problema è mal posto e quindi non si può, diciamo, discutere, non si può discutere. Tanto è prima lei, sì, è prima. Io ho la mente al centro anch'io, Claudia. Vuoi provare a darci una tua definizione di verità, cosa pensi che sia la verità? Ma anche io penso che sia la ricerca comunque del giusto però universale. La ricerca del giusto però universale. La ricerca del giusto al però centro. Universale. Va bene, grazie. Tu ti chiami? Grazie. Allora, spero di aver capito il punto, ma... Ah, okay. Hai capito bene l'italiano, quello, sì, sì. Quello che hai detto in italiano? Sì, abbastanza. Okay. Quello per me è una cosa fisica. Una cosa fisica? Sì. Simile a quello che ha detto la nostra amica Ho, cioè che ha detto è una coincidenza con il processo naturale. Nel senso, siamo qua, è una cosa vera. Magari se mi dici che un mese fa eravamo qua, non so se è una cosa vera, perché finché non ho delle prove, dei documenti. Okay. La metteremo più dalla parte del mondo, cioè della ontologia, o degli esseri umani, dalla parte della parte del mondo, certo. Va bene. Ragazzi, pensate che il punto di vista ontologico ha perso, eh? Ha perso perché con la rilevante eccezione di tre che si sono schierati per dire non si può fare questa distinzione, non ha senso nel campo della... E credo che vada commentato l'uso che alcuni di voi hanno fatto del termine giustizia. Credo di capire perché alcuni di voi dicono le cose sono quelle giuste, perché mi permetto di suggerire che ci sia un po' di confusione o un modo non totalmente chiaro di interpretare il termine giustizia. Il termine giustizia è un termine proprio dell'etica, tipico dell'etica, del comportamento, diciamo, di un discorso sui comportamenti. Noi diciamo che una cosa è giusta quando è conforme a un modo ideale di comportarsi che noi preferiamo ad altri, eh? Ed è lo stesso modo per cui nelle lingue occidentali il termine giustizia indica tanto un concetto astratto quanto una parte determinata dell'apparato statale, cioè la giustizia nel senso dei tribunali, nel senso di quella parte dello Stato che decide inappellabilmente alla fine dei ricorsi, potete fare ricorso due o tre volte, poi alla fine arriva la Cassazione, se no sei condannato definitivamente. Quindi c'è la possibilità di fare appello, ma in ultimo è una sorta di potere, ed è questo che decide che cosa è giusto e che cosa non è giusto, cioè se si è comportato giustamente o no, questa è la giustizia, no? Però è sintomatico che alcuni di voi abbiano assimilato, abbiano identificato la verità con la giustizia, in realtà anche la giustizia è quanto di più variabile e di più mutevole ci sia sulla faccia della terra, all'interno delle culture, e tra una cultura e l'altra, e all'interno di ogni cultura nel suo sviluppo storico. Pensate all'Occidente, pensate alla giustizia nell'Europa medievale e al suo rapporto con la religione, quando l'Inquisizione accertava il carattere eretico di una persona, dicevano tu sei un eretico, cioè il modo in cui tu la pensi non è conforme alla verità, certo, non è conforme alla verità delle scritture, ma la verità delle scritture è una delle sacre scritture, parliamo dal punto di vista del cristiano medievale, in parte anche del cristiano attuale, insomma, molto più di quello medievale. Quella è una verità molto particolare, è la verità che sta contenuta nei libri sacri, e quindi, in quanto è quella verità, è la verità di Dio, decide che cosa è giusto e che cosa non è giusto. Quindi una volta che tu eri dal tribunale ecclesiastico dichiarato eretico, cioè dichiarato, si dichiarava, si acclarava, si accertava che tu non la pensavi come le gerarchie ecclesiastiche di quel periodo, la Chiesa non ti condannava, cioè la Chiesa dichiarava che la tua anima era dannata, cioè che tu eri condannato all'inferno, ma non ci faceva poi nulla, che era torturato per quei due mesi, per stare in cella tanto per farti dire, per farti emettere le dichiarazioni che potevano confermare la tua natura, diciamo, di eretico, ma dopodiché la Chiesa non ti faceva nulla, non ti bruciava, non ti metteva in galera, ti passava alla giustizia umana. La giustizia umana, cioè quella che oggi sarebbe quella particolare, prendeva atto che la giustizia ecclesiastica aveva dichiarato che quell'uomo era eretico, e la giustizia umana provvedeva a comminargli le pene necessarie, che potevano essere, quando si andava bene, un po' di galera, se si andava un po' peggio, un rogo sulla pubblica piazza, nei casi peggiori, proprio quando eri, non so, no, ti attaccavano a quattro cavalli, e poi frustavano i cavalli, e uno moriva smembrato, letteralmente staccato in quattro, o anche un po' di più cose, queste erano lì dei sedini, non parlo di senso. Quindi certo che c'è un rapporto tra verità e giustizia, è vero che c'è un rapporto, però da quando il... va anche detto però che questo tipo di rapporto è stato un po', diciamo, sganciato da perlomeno da quando è finita l'Inquisizione, c'è ancora l'Inquisizione, ragazzi, che era però adesso non fa più quelle cose che potrebbe dire, ragazzi, cambia la vita, cambia il mondo, loro sono, diciamo, si divertono un po' meno, insomma, i cardinali, quando si divertissero alcuni secoli fa, ci dispiace per loro, però fanno sempre l'indice dei libri proibiti, tra l'altro fanno sempre che è nella loro natura, cioè comunque sì, fanno questo genere di cose qua. Però questi, diciamo, la modernità, cioè la nascita di un pensiero politico moderno, eccetera, ci ha abituato a separare un po' questi due, diciamo, concetti. Quindi la giustizia è un concetto che ha a che fare con con il comportamento, quindi con, no? È un ideale che dichiara la desiderabilità o la non desiderabilità dei comportamenti degli esseri umani, mentre la verità sembrerebbe qualcosa di diverso, che abbia più a che fare con una specie di corrispondenza tra la realtà e il mondo. Allora, Ibáñez nel suo libro spiega bene che le posizioni relativiste non negano né l'esistenza della verità né l'utilità della verità nelle cose umane, insomma, nel modo di comportarsi degli uomini. Tutti noi, quando parliamo, ogni volta che parliamo, e qui ricordiamoci di questo legame che è stato enunciato tra l'età e il linguaggio, che è stato proposto, tutte le volte che noi, come dire, parliamo, obiettivamente facciamo uso di un concetto, di una pratica, di un concetto di verità. Cioè, quando parliamo, è difficile, diciamo, quando parliamo si suppone che ognuno di noi faccia in modo che le proprie parole, cioè la propria produzione linguistica di quel certo momento, rispecchi effettivamente lo stato di cose del mondo. Se io vi dico, ieri ho visto 4 bengalesi picchiati da 15 fascisti, voi supponete che io l'abbia visto davvero, che io quindi, che ciò che io vi racconto, quello che io vi dico, sia il resoconto fedele, no, sia il resoconto fedele di qualcosa che ho visto. E quindi in questo caso il Benz Caronia racconta la verità. Ha visto 4 bengalesi picchiati da 4. Se questa cosa io l'ho solo letta sul giornale e vengo da voi e vi racconto che l'ho vista, che cosa ho fatto? Vengo via, no? Giusto? Magari ho raccontato un fatto vero, ma quello che io vi ho detto, ho visto 4 bengalesi, non è vero, no? Allora non si suppone mai che, certo che la possibilità della menzogna è implicita nel linguaggio. Ogni volta che parlo posso dire non dire, no? Ogni volta che parlo posso violare la verità. E la gran parte delle volte, molte volte, questo, diciamo, si fa. Si può fare anche a fin di bene, sono state bugie dette a fin di bene, quindi, sempre per restare nell'ambito di alcuni dei miei bersagli preferiti, di, spesso i preti, quando ero piccolo, io negli anni o nei secoli scorsi, ci dicevano che a volte si poteva anche dire delle bugie a fin di bene, no? la cosa importante era, ma che fosse a fin di bene o no, questa è una cosa un po' inquietante, alcuni di noi sono inquietati dal fatto che ci sia questa possibilità di mentire nel linguaggio, ma obiettivamente c'è, cioè, da che cosa deriva la possibilità di mentire nel linguaggio? Semplicemente dal fatto che il linguaggio, l'ho detto 50 volte, vi ripeto sempre le stesse cose, sarete scocciati, ma così è. Il linguaggio è una attività di rappresentazione, raddoppia le cose, mi dà un doppio, come un foglio di pensano alcuni che sia come un foglio di carta carbone. In realtà, adesso il foglio di carta carbone, mi rendo conto che uso delle metafore che denotano, che connotano, che rimandano a tutta la mia età. Non si usa più la carta carbone, ma un tempo, quando c'erano le macchine da scrivere, per fare le copie si metteva la carta carbone tra due fogli e si faceva sul secondo foglio, comparivano un po' più smangiate le stesse lettere che avevate battuto, comparivano nel primo. Insomma, il linguaggio si suppone, facendo il linguaggio, diciamo, parlando, usando il linguaggio, io faccio una copia del mondo. Ora, da che mondo è mondo, cioè da sempre, fare una coppia vuol dire avere la possibilità di farla falsa, no? Non ci sono visti. Finché le cose sono cioè, finché le cose stanno lì, finché le cose avvengono una volta sola, non si può mentire. Ho visto, io sono andato lì, stavo lì, mettiamo che l'altro giorno stavo alla Magliana e ho visto 10 fascisti che picchiavano 4 bengalesi. Ma l'ho visto io e tutti quelli che stavano con me, quelle 20 persone, diciamo, di cui 18 che hanno visto quel fatto. Quando mi sposto dalla Magliana, vado a Largo Argentina, sempre a Roma, e racconto a un mio amico questa cosa, già non c'è più, già l'evidenza del fatto è sfumata. Quindi forse è vero che la verità riguarda il passato, ma perché riguarda il passato? Perché è un fatto linguistico. E il linguaggio, tu dici, quando non parla sempre, può parlare anche del futuro, ma insomma, in generale quando si raccontano delle cose, si raccontano delle cose che sono successe, quindi delle cose che fanno parte del con il passato. La definizione più comune di verità quella più ingenua, quella più semplice, quella che però è stata enunciata per prima nella storia del pensiero umano, è semplicemente questa. Sono vere le cose che sono in accordo col mondo. Se c'è un accordo, se c'è una corrispondenza tra certi enunciati linguistici e gli stati di cose, questi enunciati vengono definiti. Se non sono in accordo con gli stati di cose del mondo, vengono definiti falsi. Prendendo per buona questa definizione, intanto per cominciare viene fortemente rafforzata l'idea che la verità sia prevalentemente un fatto di questo. La verità è qualcosa che riguarda certi enunciati che sono definiti veri. Quando io dico il monte Everest è alto 8.300, scusiamo che dica la cifra, tot metri, che cosa è vero? È quel monte che è vero? È l'altezza del monte che è vera? Il monte in quanto tale, che senso ha dire che un monte è vero o falso? Il monte sta lì in caso, no? Non è né vero né falso il monte, è reale, è lì. È vera o falsa la mia asserzione riguardo all'altezza di quel monte? No? Questo posso dire, oggi penso di poter avere gli strumenti per dire se ciò che io asserisco, quindi la verità è sempre un fatto linguistico. Quindi non bisogna confondere il vero con il reale. Il mondo, non entriamo adesso nella diciamo, discussione di quanto sia fondato il concetto di realtà, o di quanta sicurezza possiamo avere noi che il mondo sia, diciamo, reale. Cioè, chi pensa che abbiamo una ragionevole sicurezza che le cose che vediamo, che tocchiamo, che sentiamo, che odoriamo siano reali, altri pensano meno, ma non entriamo a questo verso. Supponiamo pure che ci sia qualcosa chiamato mondo. Se io dico che la verità è un accordo col mondo, cioè una corrispondenza tra i miei enunciati linguistici e gli stati di cose, e gli stati di fatto, questo implica comunque che la realtà è un concetto linguistico, non ci sono crisi su questo, la realtà è un concetto linguistico, quindi la verità è un concetto linguistico. E la verità non ha a che fare con la realtà se non dal punto di vista dell'accordo. Ora, il problema qual è? È che questa definizione di verità pone molti più problemi di quanti non risolva. Perché se io dico che la verità è l'accordo tra un enunciato o più enunciati e il mondo, devo dire quali sono i criteri in base ai quali io dichiaro questo accordo. Chi mi garantisce che ciò che io dico, io arrivo e dico, Ieri ho visto 4 bengalesi picchiati da 10 fascisti. Come fate voi a sapere che io dico la verità? C'è un modo di sapere che ho detto la verità? Come no? Ci si può provare, eh? Io arrivo qua oggi è il 31 marzo 2010. Esatto. Vuoi uscire? No, attenzione. Tu non vuoi accertare se sia vero il fatto. Tu vuoi accertare se sia vero che io arrivo e dico ho visto 4 bengalesi picchiati da 10 fascisti. Il fatto tu supponi che sia vero, perché l'hai letto sui giornali, l'hai visto in TV, hai sentito parlare, eccetera. Verificare, cominciamo a verificare. Si va a Roma, al Conte Magliano, con la foto di Carolina e si va lì per il quartiere e dice: avete visto questo signore? Così si fa. Se vuoi essere sicura che io ho detto la verità, cioè di scatto, non si basta la Carolina, se non si va a Milano, cazzo di faceva a Roma. Quindi vado giù. Avete tempo da perdere, siete figli di papà e potete buttare i soldi, andate a Roma, tanto che a Roma ci sta sempre meglio che non pioverà. Basta chiamare i tuoi amici e chiedere se è uscito. Basta i parenti, basta, ma ci sono varie, benissimo, ok, quindi ci sono dei modi per accettare. Quindi come fate voi per accettare la verità di una questione mitica? Fate un passetto indietro, giusto? Andate bene. Supponi che tu telefoni ai miei amici e telefoni a Mario, a Mario Tanari. Gli dici: scusa Mario, dove stava Carolina il giorno che hanno picchiato i bengalesi? E Mario ti fa: beh, stava qui a Milano. Dice: come lo sai? L'hai visto? No, mi ha telefonato. Ah, ti ha telefonato, quindi stava qui in Italia, non l'hai visto. Può darsi che questi amici che con tu chiami non li abbiano, supponiamo che non li abbiano visto. E quindi bisogna, allora facciamo un passo ancora più indietro, non la faccio lunga, però voi tutti capite che se voi volete realmente accertare che certi enunciati linguistici sono in accordo col mondo, avete questa possibilità, però siete condotti a fare che cosa? Dei passi, diciamo, indietro, dovete accertare che altri enunciati, che altri fanno, è sempre con linguaggio, perché senza linguaggio non so parlare, uno può anche essere sordomuto, può arrivare lì con la foto di Carolina e dice, cioè, però insomma, è un povero sostituto del linguaggio, e se chiedete, l'avete visto questa persona qua quando picchiavano i bengalesi, qualcuno l'ha visto? Cioè, così dovete fare. Nella maggior parte dei casi, il primo, il secondo, il terzo, come dire, livello, non mi daranno una sicurezza. Dimmi. Ok, giusto, c'è anche una forma vera, ma capisci, ma ce n'è 10.000 di cose, cioè ci sono 10.000 modi per sfuggire, cioè ogni passo che voi fate dovete susseguentemente accertarlo. Allora, questo serviva per dirvi che la definizione ingenua della verità come accordo di una certa, di un certo enunciato, di una certa asserzione con gli stati di fatto, con il mondo, è qualcosa che richiede di essere verificato a sua volta, non è un dato di fatto immediato, ogni volta, e questo è ineliminabile, e ogni volta che c'è di mezzo il linguaggio non c'è nulla di immediatamente verificabile se non il fatto che io parlo, se non il fatto, è indubitabile se voi mi sentite dire ho visto 4 bengalesi picchiati da 10 fascisti, ognuno di voi sarà certo che io abbia realmente enunciato, che io abbia pronunciato quelle parole, ma non potete essere sicuri che quelle parole siano vere se non avete fatto degli accertamenti, quindi fate un passo indietro. Che cosa fate? Com'è che si chiama questa, diciamo, attività? Per stabilire la verità di certi enunciati, voi dovete accertarvi di quanto siano fondati questi enunciati. Quindi il problema è il fondamento di questa verità. Se non vi ponete il problema del fondamento della foundation o ground in inglese, del grund tedesco. Voi non potete fare passi avanti sulla strada della solidarietà. Paradossalmente voi dite, noi diciamo che facciamo un passo avanti verso la solidarietà, in realtà non facciamo mai passi avanti, facciamo sempre passi indietro verso la solidarietà. Dobbiamo accertare qualcosa che è successo prima o che è di carattere più fondamentale dell'accordo fra un enunciato e lo stato di cose che di volta in volta. Quindi il problema della verità fondamentale è quello del fondamento. E qui sta la differenza tra le posizioni assolutiste o universaliste e le posizioni relativiste. Non sul problema della verità. La verità è ovvio che tutti noi parliamo come se la verità esistesse, ed è giusto che noi facciamo così. L'assolutista dice esistono dei criteri oggettivi per fondare la verità. L'assolutista è convinto che a un certo punto questa marcia all'indietro che fa si arresterà. Ah, dice l'assolutista, ecco, adesso sono posato, i miei piedi sono posati su un terreno bello solido, sulla roccia. Il relativista gli dice, guarda che quello su cui sei posato non è proprio roccia, molto solida, non sono sabbie mobili perché a che pare di stare in piedi, ma tra un po' ti sposti un attimo, quello che hai sotto i piedi non è così solido come tu pensavi. La differenza quindi tra le posizioni assolutiste e le posizioni relativiste nei confronti della verità è che il relativista proclama attenzione, non l'inesistenza, l'impossibilità per gli esseri umani di arrivare al fondamento sicuro di qualche cosa. Non c'è modo di arrivare al fondamento sicuro di qualche cosa. Finora ho fatto degli esempi che riguardano cose banali, enunciati semplici, stati di fatto, cose di fatto. Ma parliamo di qualche cosa di un po' più, che apparentemente è più solido dal punto di vista della verità. Siamo nella tradizione occidentale, torniamo al fondamento dal punto di vista storico e cronologico uno dei fondamenti, una delle origini della civiltà occidentale, andiamo in Grecia, andiamo nella Grecia classica del quarto secolo avanti Cristo. Sono i greci che ci danno l'origine di questi termini, ta onta, ciò che esiste, te episteme, la conoscenza sicura e certa. Fin dai tempi dei greci, fin dai tempi di Socrate e di Platone, c'è un modello di discorso epistemico su cui su tante cose si può essere incerti se la nostra conoscenza sia episteme, per solida, salda, fondata, vera o doxa, opinione. Tu la pensi così, però se l'altro la pensa così. La politica da sempre, anche nell'Atene antica, era di fatto di doxa. Poi certo la doxa di Pericle risultava maggioritaria, perché Pericle era in grado di convincere la maggioranza. Purtroppo per noi la doxa di Berlusconi e di Tremonti è anch'essa maggioritaria perché convince la maggior parte della gente, però neanche loro pensano che sia verità, se sono oneste, forse oneste. Penserebbero che sia verità assoluta, neanche Tremonti. Tremonti sa bene che le sue sono tozze, non sono episteme, però vincono, quindi cioè perché in quel posto, perché avremo quello che avremo nei prossimi anni dal punto di vista economico, va bene. Bene, l'esempio più solido che c'è dal punto di vista del discorso epistemico è una delle scienze umane, una delle più antiche scienze, che si stava sistemando proprio in quegli anni lì, nella Grecia, cioè la matematica. Gli elementi di Euclide sono di qualche secolo dopo, ma già nei dialoghi di Platone c'è la dimostrazione del teorema di Pitagora, nel Menone. Socrate conduce uno schiavo passo passo a fare la dimostrazione del teorema di quadrati. I quadrati costruiti su due cateti sono proprio equivalenti al quadrato costruito su due cateti. Bene. La matematica rappresenta nel pensiero occidentale da sempre un modello di episteme, giusto? Siamo convinti di questo? Di ragionamento fondato. È impossibile, Non è questione di doxa, è questione di doxa di quanto devo ridurre il debito pubblico, è questione di doxa se gli operai greci dovranno tirare la cinghia per soddisfare l'Unione Europea il Fondo Monetario Internazionale o se c'è qualche altra via. Ma non è questione di doxa che la somma dei quadrati dei cateti sia uguale al quadrato sull'ipotenusa, giusto? Siamo tutti convinti di questo? Qualcuno dubita che la matematica sia fondata e sia un tipo di conoscenza stabile, certa, incrollabile? Siamo tutti convinti? Sì, ok. E allora, ma su che cosa è fondata la matematica? Su se stessa. Cosa? Su se stessa. Il teorema di Pitagora, se io dimostro il teorema di Pitagora, di che cosa ho bisogno per dimostrare il teorema di Pitagora? Sì, del mio ragionamento, ma se è proprio un problema. Ma il problema c'è già. Il linguaggio. Sì, il linguaggio, ok. No, ma nel concreto. Nel concreto, quando dimostro il teorema di Pitagora, faccio riferimento a qualche altro teorema che ho dimostrato prima o no? Molto bene, sì. Quindi se faccio il passo indietro, Pitagora sta qua, il teorema di Pitagora sta qua, a un certo punto dovrò usare, per esempio, il fatto che la somma degli angoli interni di un triangolo sia uguale a due angoli piatti, cioè a 180 gradi. Allora, Pitagora mi dice questo. Quindi questa roba qua equivale a questa. Per poter dimostrare questo, a un certo punto dovrò dimostrare che la somma di queste tre cose è come se fosse un angolo piatto, giusto? Ma come faccio per dimostrare questo? Vedete che anche nella matematica si fa come per stabilire se è vero che Caronia ha visto più chiaro 4 megalette, si fa di farsi indietro. Si va indietro. Si fonde ciò che, diciamo, l'asserzione, la verità delle asserzioni fatte a un certo livello si basa su asserzioni a un livello precedente, ma questa asserzione, cioè quella che gli angoli interni di un triangolo hanno come somma 180 gradi, è fondata su cosa? Devo fare un altro passo indietro, no? Oh, bravo! A un certo punto smetto di fare i passi indietro. La geometria di Euclide è fatta così. Tutti i teoremi della geometria euclidea sono dimostrati, cioè sono raggiunti con un ragionamento impeccabile, perfetto, indistruttibile, catafratto, corazzato, partendo da cinque proposizioni iniziali, chiamate postulati o assiomi, le quali non sono dimostrate, no? Non è possibile costruire alcun discorso, alcuna episteme sul piano deduttivo se non ho dei punti di partenza. La lunga marcia all'indietro della matematica si ferma ad un certo punto ad alcuni enunciati che vengono dati per buoni, che vengono accettati per poter cominciare, per poter partire. L'uomo, come il suo linguaggio, è un essere finito. I suoi dispositivi sono dispositivi finiti, limitati, quindi non posso andare avanti all'infinito. Il regresso all'infinito è impossibile per gli esseri umani. non abbiamo una vita infinita, dopo un po' si muore. Quindi se io per tutta la vita sono andato indietro a cercare le fondamenta di qualcosa, a un certo punto mi devo fermare. Se non parto, se non accetto che prendo alcuni, quindi io accetto di prendere alcuni enunciati come punti di partenza e poi su questo costruisco. Vi dico questo perché la questione dell'assiomatica, degli assiomi, della matematica, quindi diciamo della geometria, ma anche dell'aritmetica, perché negli elementi di Euclide, diciamo di Euclide perché è la prima opera che c'è rimasta, ripeto, l'opera Euclide nel secondo secolo a.C., ma si basa su cose che sembra. Comunque, diciamo quella, quell'opera lì. La matematica di Euclide si basa su un punto di partenza, quindi ecco il suo fondamento, no? È fondata. Su che cosa è fondata? Non su qualcosa di extra linguistico, su qualcosa di linguistico sempre. Sono cinque frasi, cinque enunciati che dicono: si può prolungare indefinitamente un segmento di retta da una parte e dall'altra. Uno. Secondo, per due punti passa uno e una sola retta. Terzo, tutti gli angoli retti sono uguali tra loro. Quarto, si può sempre tracciare una linea nel piano in modo che tutti i suoi punti siano equidistanti da un punto fisso del centro. Quinto, data una retta e un punto fuori di essa, per questo punto passa una e una sola retta parallela alla retta data. Sono tutte frasi, giusto o no? Cosa cazzo hanno a che fare col mondo? Oh, sono frasi, è linguaggio, è linguaggio. Su queste cinque proposizioni, chiamate assiomi o postulati, che non vengono date per dimostrate, si fonda tutto il resto. Quindi bellissimo, ce l'ho ripetato, ragazzo, ottimo, perfetto, però si fonda su qualcosa che è linguistico, non sono uscito dal linguaggio sinora. Come si faceva a uscire dal linguaggio? Ma il greco antico, Platone e Socrate, tutti tranne quella piccola battuta di scettici, diceva, la verità è accordo col mondo, come faccio a essere sicuro? Quindi c'è, vuol dire che a un certo punto questo linguaggio devo ancorarlo al mondo. Come si ancorava? Allora, uno dice, va bene, tutto l'edificio della matematica, che ripeto è un modello di conoscenza certa, non sto parlando delle chiacchiere da caffè, sto parlando di uno dei modelli più alti di conoscenza di tutta la cultura occidentale. Al suo interno questo discorso è fondato sempre su questioni linguistiche. Ho fatto i passi indietro necessari e sono convinto, tranquillo e sicuro, che se le cinque proposizioni all'inizio sono fondate, allora tutto il resto è fondato. Ma devono essere fondate anche quelle, o no? E su che cosa le fondo quelle? I cinque postulati, i cinque assiomi del Euclide che vi ho detto adesso, su cosa si fa? Dove sta l'accordo col mondo? Il greco antico aveva un criterio. Diceva, perché non mi dimostro quei cinque postulati? Perché posso? Perché sono esentato dall'obbligo di dimostrarli? Perché se avevo l'obbligo di dimostrare pure quelli, il regresso all'infinito continuava, no? E quelli a partire da cosa li dimostravo? Allora, il greco antico era consapevole, come noi, del fatto che a un certo punto bisogna fermarsi, però non aveva, il greco antico, ripeto, tranne quelli che avevano già sviluppato delle posizioni anti-universaliste, erano pochi ma c'erano, gli scettici, per esempio, Pifone, Diede, Sesto Empirico, tutti gli altri dicevano, no, ma perché mi fermo? Certo che mi devo fermare, ma perché mi fermo a questi e non ad altri? Perché non prendo il teorema di Pitagora come un assioma e dimostro il resto? No, per noi oggi è equivalente, per loro no, perché dicevano, i cinque postulati non li devo dimostrare perché rappresentano proposizioni evidenti di per sé stesse, evidenti di per sé stesse. Eccolo qui l'accordo col mondo. Questo è l'accordo col mondo. Platone e Socrate pensavano di avere soddisfatto questo criterio di raccordo tra epistemologia e ontologia dicendo gli assiomi di Euclide sono, e qui non c'era ancora, gli assiomi della matematica sono esentati dall'obbligo di essere dimostrati perché rappresentano proposizioni evidenti di per sé. No? Sì, ma lo stipo non è d'accordo con il mondo su se stesso. Ma col mondo sono evidenti. È evidente che nel mondo prendi un pezzo di filo e puoi pensare di prolungarlo. È evidente che nel mondo puoi tracciare un cerchio dato un centro e un raggio. È evidente. Quindi questo è un accordo col mondo. Cioè, quindi, siccome i cinque assiomi, i cinque postulati dicono delle cose che sono evidentemente vere, perché sono vere, perché nessuno potrebbe metterle in discussione, perché si accordano col mondo, ecco che tutto il resto della geometria sarà vero, cioè si accorderà col mondo anche nel senso del mio. Malauguratamente. Era un wishful thinking questa affermazione che queste cinque proposizioni fossero tutte di per sé evidenti. Noi possiamo pensare che fosse un wishful thinking in genere, ma anche per quelli che fossero anche per quelli che fossero malati, un po' troppo malati, di realismo ingenuo, il guaio è che di questi cinque postulati c'è una certa differenza fra i primi quattro e l'ultimo. Adesso attenzione, perché l'ultimo è interessantissima la presenza del gesso, vedi qui se c'è il gesso però manca il cancellino. Dov'è? C'è? Ah, eccolo qua. In realtà, se voi leggete gli elementi di Euclide, i primi quattro postulati li leggete grosso modo come ve l'ho detto io, ma non il quinto. Io il quinto postulato l'ho enunciato così: data una retta A e un punto P fuori di esso, per il punto P passa una e una sola retta B che sia parallela a A, giusto? Questo sembra relativamente semplice, è già un po' più complicato degli altri quattro, ma addirittura in Euclide questo postulato ha una forma diversissima, questo è un teorema per Euclide. Il postulato di Euclide, ve lo devo dire così capite quando è, il quinto postulato nella forma di Euclide afferma questo: date due rette, diciamo A, se c'è una terza retta C che le taglia tutte e due, e se gli angoli interni che le rette A e B formano con la retta C da una certa parte sono minori di un angolo piatto, allora le due rette si incontrano da questa parte. Questa è la forma e quella del primo postulato. È del tutto equivalente assumere come postulato questo e dimostrare questo o assumere come postulato questo e dimostrare questo. Nei vostri studi, se li avete fatti al liceo di geometria, voi di solito avete come me preso questo come assioma e questo è un teorema. Negli elementi di idea è l'inverso, questo è il postulato e questo è un teorema. L'hanno fatto i matematici rinascimentali perché si erano accorti che questo quinto postulato in questa forma poi specialmente così era una rabbia, bisogna dire una rabbia, perché era diverso cazzo dagli altri quattro. Uno dice prendo due punti, prendo un segmento e posso prolungarlo indefinitamente da entrambe le parti. Prendo due punti e ci passa una e una sola retta. Gli angoli retti sono tutti uguali tra loro. Cazzo, sono affermazioni semplici, facili, che si capiscono subito, ma se devo fare sta pappardella che devo dire? Date due rette, se una terza retta le taglia, allora le due rette si incontreranno dalla parte in cui gli angoli interni come somma sono meno di un angolo piatto. Ci ho messo un secondo del tempo a dirlo rispetto a prima. Insomma, era a poco i matematici hanno cominciato ad accorgersi che la loro affermazione, i cinque postulati sono veri perché rappresentano verità evidenti, era al massimo applicabile ai primi quattro, ma non al quinto. Pacati come sono di mente i matematici tutti, si sono messi a dire, allora vuol dire che c'è qualcosa che non va, vuol dire che il quinto non è un vero postulato. E tutti, ma guarda che Euclide è una persona intelligente, se poteva fare il quinto con quattro postulati, penso che avrebbe fatto da solo e gli altri a dire, Euclide sarà stato anche bravo, ma noi siamo migliori. Adesso vedrete che dimostreremo il quinto postulato. E nel Medioevo no, che erano troppo pigri, ma nei primi due o tre secoli dell'età moderna, pieno di matematici che hanno cercato di dimostrare il quinto postulato, cioè di dimostrare che il quinto postulato era una conseguenza del primo quattro. Sarebbe venuta una grande gloria, no? A chiunque sa questo, perché avrebbe dimostrato che il sistema di Euclide così celebrato era un sistema sovrabbondante, che Euclide per pigrizia aveva considerato postulato una cosa che non lo era. Una pacchia per chiunque cercasse gloria, non oggi si cerca gloria in altri modi, ma diciamo, all'epoca gli intellettuali, quelli che sapevano la matematica, e quindi si danno a fare questa cosa. Come si può dimostrare il quinto postulato? È difficile dimostrarlo in modo diretto, per trovare una dimostrazione diretta. È più semplice, pensavano i matematici, non era sbagliato, cercare una dimostrazione per assurdo. Che cosa vuol dire una dimostrazione per assurdo? I teoremi, qualunque insomma teorema, ma diciamo che nella matematica è più semplice, insomma, si possono dimostrare in due modi: o direttamente partendo dalla ipotesi e con una catena di ragionamenti dimostrati, il sistema di Pitagora ha diverse dimostrazioni, quasi tutte dirette, cioè sono lunghe catene di ragionamenti, fai delle costruzioni, tagli i quadrati, fai le cose, dimostri che quei due quadrati dei trapezi sono effettivamente equivalenti, occupano la stessa superficie del quadrato dell'ipotenusa. Questo è il primo modo. Il secondo modo è un modo indiretto, chiamato per assurdo. Consiste non nel partire dall'ipotesi, ma dalla tesi. Nel negare la tesi. Dice, nego la tesi, dico che la tesi non è vera. Faccio un po' di ragionamenti, a un certo punto trovo qualcosa che è in contrasto o con gli altri quattro postulati o con qualche altro teorema che ho già dimostrato. Questo mi basta per dire che ho sbagliato a, diciamo, negare la tesi, che quindi la tesi è giusta. Il quinto postulato di Euclide si cerca perciò di dimostrarlo in questo modo. Si cerca di negare che le rette si incontrino dalla parte in cui gli angoli hanno una somma minore, e si può negare in due modi diversi: o dicendo che in realtà si incontrano dall'altra parte, oppure dicendo che non si incontrano mai, cioè che sono parallele. Adesso noi usiamo da vari secoli questa versione del quinto postulato. Negare il quinto postulato significa anche in questo caso fare due ipotesi diverse. Dire, una, data una retta A in un punto P, parallele non ce n'è. Nessuna retta che passi per P può essere parallela ad A, tutte la incontreranno. Oppure può essere quello di dire ce n'è più di una, non è solo una, ce n'è molte. Per una serie di motivi che adesso non vi dico, se negate il quinto postulato in questo modo salta fuori che ci sono due rette B e C che passano per P, tali che tutte le rette che stanno dentro questo angolo sono tutte quante parallele, le altre fuori no. Diciamo, o ce n'è troppo poche, nessuna, o ce ne troppe. E i matematici si danno a costruire, cioè facciamo dei ragionamenti partendo o dall'una o dall'altra di quelle ipotesi, prima o poi troveremo una contraddizione. Prima o poi troveremo qualcosa che è in contrasto con i teoremi già dimostrati o con gli altri quattro postulati. una volta che abbiamo trovato questo, abbiamo finalmente dimostrato il quinto postulato. Abbiamo dimostrato che non è un postulato, ma che è un teorema. Il problema è che vanno avanti e nessuno trova contraddizioni. Non si trovano contraddizioni. Si costruisce certamente un'altra geometria, basata su una, su uno o l'altro dei due assunti. Sull'assunto che non ci siano rette parallele, o sull'assunto che ce ne siano infinite, tutte dentro un certo angolo. Nei primi decenni dell'Ottocento a qualcuno viene in mente che cazzo. Non abbiamo dimostrato questo postulato, abbiamo costruito un'altra geometria che si basa su un quinto postulato diverso da questo di Euclide. E queste sono le geometrie non euclidee. Le geometrie non euclidee sono uscite fuori nel tentativo di costruire, di dimostrare il quinto postulato di Euclide, impresa che si è dimostrata impossibile, perché il quinto postulato di Euclide è un vero postulato, e senza quel postulato non si può costruire la geometria, quindi i postulati non possono essere meno di 5, però possono essere, almeno il quinto può essere diverso, in realtà volendo si potrebbero negare uno qualunque degli altri e si avrebbero geometrie differenti. Vi ho ricordato questa cosa perché questo è stato uno degli episodi che hanno cominciato a fare dubitare alcuni matematici e alcuni filosofi di questa giustificazione che veniva data prima sui postulati. I postulati non sono dimostrati perché sono verità evidenti. Non sono poi tanto evidenti. Una sicuramente non è contraria. Sì, è contraria alla nostra intuizione. Noi, per il modo in cui vediamo, ci viene meglio supporre che le rette parallele ci siano e che siano uniche, che dato un punto fuori ce ne sia solo una. Ma dal punto di vista del ragionamento io posso costruire un'altra geometria che evidentemente corrisponde con un mondo diverso, con un mondo diverso o con un mondo un po' diverso da come lo vedo io, o con un mondo che mette in luce degli aspetti diversi da quelli che la vista umana vede, ma insomma è molto complicata come cosa, ma diciamo è meglio abbandonare questa idea che i postulati non si dimostrano perché sono auto-evidenti. E allora viene fuori un altro punto di vista. Da un punto di vista filosofico, perché non si dimostrano? Perché arbitrariamente è qualcosa da cui partire ci vuole, ma la scelta di quale sia l'affermazione da prendere come assioma, come postulato dalla quale partire, non ha alcun fondamento, è arbitraria, è una convenzione. Un punto di vista del genere si chiama convenzionalista. Quindi comincia a sorgere una epistemologia, cioè una filosofia della scienza, di tipo convenzionalista, che dice, va bene, certo, per costruire una teoria matematicamente solida occorrono dei postulati, occorrono degli assiomi, occorrono dei punti di partenza. Ma questi assiomi non hanno alcun fondamento. Non c'è una caratteristica di questi assiomi che me li deve fare preferire. È una pura questione di convenzione. Convenzionalmente da qualche punto bisogna partire, se no si andrà a fare il regresso all'infinito. Il convenzionalismo, che è stato poi ipercriticato per tutto il Novecento, ma ogni critica che voi fate al convenzionalismo vi ributta nel pantano del dogmatismo, cioè vi costringe a risolvere problemi che non avete voluto risolvere. Quindi il convenzionalismo, il convenzionalista, nonostante tutto, è preferibile perché è una persona onesta, perché mi dice, da qualche parte devo comunque partire, ma è arbitrario il punto che scelgo. Devo, cioè nel punto ne scelgo uno. La storia delle geometrie non Euclide dimostra appunto questo, cioè il fatto che è totalmente indifferente. Non solo da cosa parto, ma che cosa affermo. Il contenuto dei postulati può essere diverso. E io posso costruire teorie che funzionano, le geometrie non euclidee funzionano. Per tutto l'Ottocento le geometrie non euclidee vengono studiate, ma vengono studiate come pura speculazione, c'è una geometria così. A un certo punto nei primi anni del Novecento arriva un signore, un giovane impiegato dell'ufficio brevetti di Berna, in Svizzera, che costruisce una bizzarra teoria, neanche tanto, non so perché tanto lì della relatività generale del 1917, la quale teoria prevede che non è vero che ci sia la gravitazione universale, come aveva detto Newton, che le masse si attraggono, tutta palla, fa questo qua. Dice, il problema, le masse si attraggono perché lo spazio ha delle caratteristiche strane, le masse incurvano lo spazio. Diciamo, che cazzo dici? Allora, si chiamava Einstein, teoria della relatività generale, 1917, ha fatto quella della relatività discreta o speciale, 1900. Tutto è contato nel 1905 i primi articoli, nel 1911 la teoria del 1907, due anni dopo la teoria della relatività ristretta sulla quella che suppone che la luce abbia una velocità costante che non sia superabile da alcun altro corpo dell'universo e no, con tutte le conseguenze del caso, teoria della relatività generale, cioè descrizione dello spazio. La teoria della relatività generale quindi presuppone uno spazio che si incurva, in cui la presenza delle masse opera una curvatura non dei corpi, dello spazio in quanto tale, lo spazio, tutto lo spazio, quello che Euclide ci aveva, Euclide e tutti, Newton, ci avevano abituato a costruire qualcosa di bello, dritto, liscio, omogeneo, perfetto, isotopo, senza nessuna direzione privilegiata, una bella cosa neutra e astratta del culmine della, anche Kant che era cascato, che pure Kant ha fatto tanto per il tempo e per lo spazio ci ha insegnato che non sono proprietà oggettive del mondo ma sono nostri modi di vederlo, però universalista pure, mi diceva che tutti gli uomini hanno tutti la stessa testa, quindi è vero che è soggettivo durante il tempo, ma tutti lo vedono diciamo uguale e come lo vedono. Non erano ancora venuti né Gauss, né Riemann, né Lobachevsky, cioè sono quelli che hanno costruito la geometria non euclidea, e quindi Kant può dire lo spazio è euclideo, perché è l'unico a tutti, diciamo, l'unica cosa euclidea. Dopo pochi decenni, dalla morte di Kant, che avviene nel 1811-1904, si scoprono le geometrie non euclidee, quindi anche la parola di Kant va a 48, non è vero che la geometria euclidea è l'unica possibile, dal punto di vista della percezione sarà la più quella che funziona meglio con un fatto contingente, per come sono fatti i nostri occhi, come è fatto il nostro cervello, ma non ha nessun carattere assoluto, capito, qualcosa che trascende ogni cosa. Sicuramente serve. Dal punto di vista intellettuale posso concepire geometrie diverse. Bene, la geometria che non prevede rette parallele è stata sviluppata prevalentemente da un signore chiamato Riemann, che si chiama geometria ellittica, geometria non euclidea ellittica. La geometria delle rette parallele infinite è stata sviluppata da un signore russo che si chiamava Lobachevsky. E si chiama geometria iperbolica. Bene, negli anni, subito dopo il 1917, si scopre che la geometria ellittica di Riemann, che era una geometria che nei decenni precedenti era, vabbè, una geometria, cioè così, però che bizzarria, oh cazzo, dicono gli scienziati, dicono i fisici, guarda un po', l'universo di Einstein, con lo spazio che si curva, con le varie cose, è descritto molto meglio da una geometria ellittica, tipo quella di Riemann, che non dalla geometria di Euclide. Addirittura, dopo un po', salta fuori che non proprio nello stesso modo, ma in parte la geometria iperbolica di Lobachevsky descrive bene alcune caratteristiche dello spazio subatomico, dello spazio che c'è dentro gli atomi, tra una particella e l'altra. Quindi questi due modelli geometrici, di cui era stata acclarata, come dire, di cui era stato acclarato, era stato raggiunto, era stato certificato il carattere intellettualmente ammissibile, erano intellettualmente erano ammissibili, erano razionali, come le geometrie, come la geometria euclidea, però non si pensava che servissero a molto. All'improvviso salta fuori che invece servono meglio per la geometria euclidea tradizionale come modello geometrico per le nuove teorie scientifiche, le due grandi teorie scientifiche diverse, ma anzi, diciamo, rivali e conflittuali nella fisica, che sono la teoria della relatività di Einstein e la meccanica quantistica, che si è sviluppata anch'essa da alcune intuizioni di Einstein, ma contro cui Einstein, finché fu vivo, gettò sempre degli anatemi, perché prevedeva un indeterminismo di fondo, la meccanica quantistica, che ad Einstein non andava bene. Il problema dei fisici da oltre un secolo a questa parte è proprio questo, quello di conciliare queste due, diciamo, sono teorie che sono così diverse tra loro, che però sono entrambe nel loro ambito, diciamo, per spiegare i grandi fenomeni cosmici dal punto di vista dei macrospazi. La teoria della relatività va benissimo. Per spiegare ogni particella vicina, lontana, quello che accade all'interno, diciamo, dal punto di vista del macrocosmo, Einstein vince, dal punto di vista del microcosmo, vincono Schrödinger, Bohr, insomma, cioè, i fondatori della meccanica quantistica. Ma c'è una contraddizione di fondo, perché la teoria di Einstein è una teoria rigidamente determinista, e non ci sono cazzi, e non ha spazi per la... Mentre la teoria, la cercare quantistica è una teoria assolutamente, non si può dire, ma rigorosamente indeterministica, cioè è retta da una serie di criteri che ci spiegano che non è possibile fare le stesse cose che si fanno, le stesse misure, la stessa precisione delle misure che si fanno nel mondo macroscopico, chiusa la parentesi. Entrambe quelle teorie però hanno dei modelli geometrici nelle... Questo da un punto di vista, filosofico ha rafforzato le posizioni antidogmatiche, anti-assolutiste, anti-universaliste, e ha rafforzato quelle che si chiamano convenzionaliste, cioè anche dal punto di vista scientifico, anche la scienza, che pure sembrerebbe, secondo per certe interpretazioni, il regno del pensiero dell'assoluto e del pensiero della fondatezza massima, ha dimostrato che, perlomeno dal punto di vista matematico, si basa su qualche cosa che non è fondato, è infondabile dal punto di vista. Ma, e già che ci sono, vi do l'ultima mazzata, così poi avrete gli incubi questa notte. Quello che succede negli anni 30 è, per certi versi, ancora più inquietante per gli universalisti, e invece rassicurante, per quello che possiamo dirti, rassicurati per i relativisti, perché un certo signore chiamato Kurt Gödel, un matematico e logico moravo che però lavorava a Vienna, dimostra nel 1931-32 due fondamentali teoremi, che prendono il suo nome, si chiamano teoremi di Gödel. Che cosa riguardano i teoremi di Gödel? Riguardano sempre la questione del fondamento. Vi ho parlato prima delle geometrie non euclidee, e quindi dal punto di vista della matematica più convenzionale, più classica, no? E in realtà nel codice per tutto il corso dell'Ottocento la matematica si era sviluppata tantissimo, e a partire dalla metà dell'Ottocento si era sviluppata parallelamente anche qualcosa che aveva stagnato fino a quel periodo, che era stata la logica. Fino alla metà degli anni 1940 e rotti, la logica era quella di Aristotele, 4 secoli prima di Cristo, enunciata dal punto di vista linguistico, insomma, di fatto erano con George Bull, con un inglese, verso negli anni 1840, la logica fa un salto e diventa formalizzata, diventa matematica. Vi racconto questo perché poi nel corso, diciamo, negli ultimi 60 anni dell'Ottocento, quindi c'è un intreccio, nasce la logica matematica, la logica informale, la matematica si estende, ma in qualche modo estendendosi si pone un problema di fondazione, cioè ma su che cosa è fondata davvero la matematica? Nasce all'interno della matematica una specie, un qualcosa che potrebbe sembrare una super teoria, la teoria degli insiemi, la set theory, quella che vi fanno fare le scuole elementari con i diagrammi di Venn, che sembra una puttanatina, invece è una cosa potentissima, e si scopre che tutta la matematica può essere fondata di fatto sulla teoria degli insiemi, a partire dall'aritmetica, che è la parte più semplice della matematica, ma è quella. La teoria degli insiemi però si scopre negli stessi anni, guarda un po', è molto simile alla logica. Allora arriva un tedesco, che si chiama Frege, dottor Frege, il quale negli anni tra 1880 e 1890 scrive una serie di opere fondamentali sulla logica matematica, la matematizza, la fa diventare una teoria matematica a tutti gli effetti, e i matematici dell'epoca cominciano a sperare che sia addirittura possibile fondare tutta la matematica sulla logica, cioè dire fondiamo la logica, fondiamo la teoria degli insiemi, ma la teoria degli insiemi è logica, quindi se l'accoppiata teoria degli insiemi logica serve come fondamento per costruire il resto della cosa, se la matematica è sicurissima, in un senso un pochino diverso da come vi ho detto prima sulla questione di quali sono le azioni, ma c'è una super teoria nella matematica che ci mette in grado, che ci garantisce tutto il resto, questo è il problema dei fondamenti. L'indirizzo di pensiero che prevale tra i matematici in quegli anni per le zone di logicismo, non a caso, logicismo, cioè cercare di fondare la matematica sulla logica. La logica sembra già fondata per i cazzi suoi, perché c'è una storia antica, Aristotele, poi adesso c'è lo strumento matematico, siamo a posto, bla bla bla. Questo signore Gottlob Frege pubblica nel 1902, credo, il secondo volume di un, no, il primo volume di un'opera chiamata Grundgesetze der Arithmetik, Fondamenti dell'aritmetica, e un giovane inglese che legge l'opera, un giovane filosofo e matematico di nome Bertrand Russell, gli scrive una lettera. Ciao, signor Frege, ho letto il suo libro, molto interessante, però meno di 20 anni, dice Russell. Dice, però guardi che c'è a pagina tale, lei dice questo teorema, lei a un certo punto introduce questa nozione, l'insieme di tutti gli insiemi. E uno dice, gli insiemi sono delle cose, l'insieme di cinque piccole, l'insieme di tutte le penne che avete in mano voi, la mia. Faccio degli insiemi basati su una intuizione materiale, poi però posso fare un'astrazione, posso dire bene, considero l'insieme di tutti gli insiemi delle penne, cioè un super insieme, che è stato un gradino più su, che ha come elementi degli insiemi. Frege fa una serie di operazioni su questa stratificazione del concetto di insieme, e Russell gli dice, guardi che se lei fa così viene fuori una contraddizione, e cioè come sarà l'insieme di tutti gli insiemi? Sarà a sua volta un insieme? insieme o no? Basta, un po' complicato, so che adesso mi codirete, vi perderete, ma basta definire qualcosa che si chiama insieme regolare. Chiamate regolare un insieme che non ammetta se stesso come elemento. Non ammetta se stesso come elemento. Per esempio, pensate all'insieme di tutti i concetti, certo? Tutti i concetti che si possono esprimere in una lingua, per esempio l'italiano. Bontà, bellezza, bianco, nero, tutti i predicati, ognuno di questi. L'insieme di tutti i concetti è un concetto? Sì. Quindi l'insieme di tutti i concetti non è un insieme regolare. Adesso pensate di costruire l'insieme di tutti gli insiemi regolari. Sarà un insieme regolare o no? Partite dall'ipotesi che sia regolare. No. Se è regolare contiene se stesso come elemento, quindi non è regolare. Ah, beh, allora non è regolare. Se non è regolare vuol dire che non contiene se stesso come elemento, perciò è regolare. Ops. Ops. È come la storia del barbiere del villaggio, uguale. Nessuno sa la storia del barbiere del villaggio? Ci sono più barbieri. No. Il barbiere del villaggio rade tutti coloro che non si radono da soli. Giusto così, no, in genere. Il barbiere del villaggio rade tutti coloro che non si radono da soli. Il barbiere del villaggio si rade? Non può né radersi né non radersi. Perché se si rade vuol dire che si rade da solo, quindi no, vuol dire che è falso che rade tutti loro che non si radono da solo, quindi non si rade da solo. Ah beh, allora non si rade. Se non si rade, non rade tutti quelli che si radono da soli, perché lui non si rade da solo, quindi deve farsi radere dal barbiere. È un sostanzialmente paradosso. Rima, ma è vero, non è un trucco. No, no, ci sto sperando. Sto sperando, qualche uno sperava, non sono cose tanto difficili. Allora, la questione dell'insieme di tutti gli insiemi regolari, intravista, pensata, scoperta da questo giovane rompiscatole, quarta feste, di inglese che si chiama Bertrand Russell, che Russell scrive a Frege, va nella più mera disperazione, perché questa semplice cosa mina alla base tutta la sua costruzione. E che faccio? Non è possibile fondare la matematica sulla logica. Da quel momento, per circa 30 anni, si apre questa cosa chiamata crisi dei fondamenti, la crisi dei fondamenti, die Grundlagen Krisis, in tedesco, la crisi perché sono in gran parte tedeschi, ma sono anche inglesi, vabbè, fino a che arriva questo signor Gödel, Kurt Gödel dimostra, fra il 31 e il 32, due fondamentali teoremi, fondamentali, che sono più o meno l'analogo del principio di indeterminazione di Heisenberg nella fisica. Gödel risolve una volta per tutte il problema dei fondamenti, dimostrando che la matematica non si può fondare da sola. Il programma del logicismo aveva, come dire, tentato questo, di fatto. Aveva tentato di combattere il regresso all'infinito, cioè di dire la matematica si fonda, perché si fondava sulla logica, ma la logica in realtà, per come era stata costruita da Frege stesso, era ormai un pezzo della matematica, era una teoria matematica. Quindi il programma logicista era, esiste una super teoria all'interno della matematica, che è la logica formale, la quale fonda tutto il resto. Fondata lei, siamo in una botte di ferro, perché abbiamo garantito la autofondatezza, no? Abbiamo costruito la nostra, il nostro edificio matematico che è autofondato. Già qualcuno, si chiamava David Hilbert, il più importante sostenitore di questa teoria, poi dai Hilbert dopo cambiamo un po' l'idea, ma insomma. I rompicoglioni dell'epoca, cioè gli analoghi di David Russell, avevano detto che guardate che non sarà così facile. E si erano ricordati quel famoso episodio del barone di Munchausen, libro ironico e satirico del Settecento dell'epoca, tutti hanno avrebbe neanche il suo film, ha trovato un film terribile, bellissimo, perso un po' di anni fa. Allora, il barone di Munchausen è un'opera satirica di un tale Raspe tedesco, scritto alla fine del XVIII secolo, in cui si parla di questo barone, di questo personaggio inglese, che è un millantatore, uno che racconta palle, racconta proprio, e tutto il libro è basato su una serie di palle, di palle nel senso anche letterale, uno degli episodi più esilaranti di questo libro, che da allora poi è diventato un piccolo classico per l'infanzia. Io l'ho letto la prima volta in una edizione un pochino ridotta, ma che è un bambino. Per esempio qua lui racconta di quando ha in una guerra con i russi, per passare da una parte all'altra delle cose, si era messo a cavalcione di una palla di cannone, perché ha saltato in troppo la palla di cannone che stava dalla guerra e l'ha saltato dall'altra parte. Quindi, cioè, chiaramente bugie, cose. L'altra rifanno un'altra cosa di quando sale in Russia e si vede, arriva lì di notte, vede un po' di palanero, eccetera, vede un palo così, allora lui è stanco, scende da cavallo, lega il suo cavallo a questo palo, poi si mette a coppia più o meno e si mette a dormire. La persona poi si sveglia, non si trova più intorno al proprio cavallo, alza gli occhi e vede il suo cavallo appeso per la cavezza al campanile di una chiesa. No, era successo veramente durante la notte, era gelato, una roba di questo tipo, insomma. Uno degli episodi più, che poi hanno avuto maggiore successo nella filosofia del barone di Munchausen, invece è quando il barone di Munchausen sta nelle sabbie mobili, sta in un pantano, non sa come fare per tirarsi fuori. Fino a che gli viene un'idea geniale, ma lui ha il barone di Munchausen, quindi può farlo. Si prende per il codino e si tira fuori da solo nel sabbie mobili. Allora, qualche matematico dice a Hilbert e agli altri del genere, dice, guarda che questa operazione che cercate di fare è simile a quella del barone di Munchausen. Voi volete tirarvi fuori dal pantano per il codino e quindi non ci riuscirete. Come il barone di Munchausen, cioè fate una operazione di tentativo di autofondazione. Bene, l'importanza di questo signor Peter è che nel 1931-32 sancisce finalmente scientificamente l'impossibilità di questa fondazione. Perché? Perché dimostra una cosa molto semplice, che i sistemi logici buoni per la matematica, buoni per formalizzare, cioè potenti per formalizzare almeno la aritmetica elementare, la più semplice tra le teorie matematiche, sono sintatticamente incompleti. Che cosa vuol dire questo? Che c'è una discrepanza tra la loro sintassi e la loro semantica. Un sistema logico, per essere buono, per essere affidabile, per poter fare le cose che pensava Frege che doveva fare, deve essere sintatticamente completo. Cioè deve avere una corrispondenza precisa tra le proposizioni dimostrabili dentro la teoria, raggiungibili con un ragionamento come il teorema di Pitagora, e le proposizioni vere. La geometria di Euclide sembra sintaticamente completa, perché dimostra tutti e soli i teoremi che si possono dimostrare. In realtà non siamo sicurissimi, di non poter dimostrare qualche altro teorema che nelle teorie geometriche non si sono dimostrati, ma per una serie di motivi che adesso sarebbe lungo dire, sì, a lungo si è pensato che fossero sintaticamente complete. La cosa era molto più importante però per i sistemi logici. Nella logica, se voi avete uno slittamento, se voi non siete in grado di dimostrare tutti i teoremi che per tutte le verità che per altra via potete scoprire che sono veri, cazzo, vuol dire che la macchina non funziona, perché non vi consente di dimostrare tutto ciò che volete. Nel 1931 Goethe dimostra esattamente questo, dimostra la logica dei, si chiama logica dei predicati del primo ordine, quella in cui si può formalizzare l'aritmetica. Insomma, lui dice ogni sistema formale, ogni logica formale che sia in grado di formalizzare almeno l'aritmetica, quindi che sia in grado di parlare di un insieme infinito, perché l'aritmetica parla di un insieme infinito, molto semplice. I numeri naturali, 1, 4, 5, ma un insieme qui infinito. Se voi costruite una logica in grado di parlare solo di insiemi finiti, questo problema di Goethe non ce l'avete. Le logiche per gli insiemi finiti sono sintatticamente complete. Sono una meraviglia, sono strumenti potentissimi. Potentissimi in caso, perché sono molto deboli. Perché sono finiti, quindi non possono parlare. Voi non potete parlare dell'aritmetica con una logica che comprende al massimo 10 elementi, neanche che ne comprende al massimo 3 miliardi, perché dopo 3 miliardi sarete sempre più uno, e quindi voi dovete avere bisogno di qualcosa che vi consenta di maneggiare insieme infiniti. Bene, Gödel fece addirittura vedere, costruì una proposizione, la costruì realmente, che era vera, inequivocabilmente vera, e come faceva a essere sicuro che era vera? Perché asseriva la propria vita. Perché diceva, costruisco questa cosa in questo modo qua, e quindi diceva di se stessa ciò che, diciamo, affermava. Bene, Goethe dimostrò che questa asserzione non era né dimostrabile né indimostrabile, cioè non si poteva dimostrare né lei né la sua negazione. Era indecidibile, non era possibile all'interno di quel sistema decidere se quella proposizione, questa proposizione gödeliana che affermava di se stessa qualche cosa, lui costruì un numero, insomma, questa è una è molto lunga questa interrogazione, è molto, molto complicata, non, se, diciamo, se non avete un po' di conoscenza di logica formale non potete arrivare neanche a capirla. Però è fatta così, insomma, cioè è forte, è insomma, potente. Non dimostra che la matematica non funziona, non niente affatto, la matematica va avanti, funziona, si dimostra anche lei, nessuno quello che vuole, dimostra soltanto che non ci si può tirare fuori dalla palude tirandosi per il bottino. Non si può fondare, dimostrare la coerenza di un sistema stando dentro il sistema. Come si fa? Quindi voi avete una teoria. Avere una teoria vuol dire avere un linguaggio formale, come quello dei computer, insomma, come. Vi chiedete questo insieme, teoria, linguaggio e quindi asserzioni, fondamenti, teoremi, è fondabile, si può fondare? Se state qua dentro, no. Non è autofondabile, non è. La fondazione di questa teoria non è esprimibile all'interno di questa teoria. Ma si può fondare questa teoria? Ma certo, basta costruire un'altra teoria, una metateoria, con un metalinguaggio. In cui questa teoria funzioni come oggetto per questa metateoria, esattamente come i numeri naturali sono l'oggetto di questa teoria, così questa teoria logica diventa oggetto per la metateoria. All'interno di questa metateoria voi potete dimostrare la fondazione, potete dimostrare la coerenza e addirittura la completezza di questo sistema. Questo sistema è coerente, cioè non è possibile dimostrare un teorema e la sua negazione, ed è completo, cioè tutti i teoremi veri sono anche dimostrabili e tutti quelli dimostrabili sono veri, è completo sia sintatticamente che semanticamente. Ma questa cosa, per poterla decidere, vi dovete mettere da un punto di vista diverso da questa teoria, dovete costruire una metateoria che parli di quella libera teoria, quindi si può fondare, ma dovete stare fuori. Avete già capito dove andiamo a finire? Perché com'è che si fonda questa metateoria? Questa stessa teoria ha esattamente le stesse sfighe di questa teoria qua, cioè non è autocontabile. Quindi per fondare la vostra teoria dovete andare dietro. Insomma, non ci sono Cristi. Dal regresso all'infinito non ci salva nessuno. Non si possono fondare le teorie. Le teorie che abbiano un minimo certo, le teorie che non servono un cazzo, sì, le teorie finite, sì, le potete fondare come diavolo volete, ma non vi servono a niente. Le teorie finite non servono neppure per l'aritmetica, non dico per l'analisi matematica, non dico per la topologia, non dico per il calcolo sensoriale, neanche per l'aritmetica, 1, 2, 3, 5 più 5, 10, non la potete fondare questa teoria se state all'interno di quella teoria. Per fondarla dovete andare fuori. L'assolutista è fottuto, è bello che è fottuto. Dove sta il fondamento? Dove sta il passo a cui io mi fermo di qua, a cui mi fermo che sono solido? Non c'è questo passo. L'assolutista è costretto a essere anche lui come... Certo, ad un certo punto non c'è un fermare, che ovvio ci fermiamo, ma non ci fermiamo perché c'è qualcosa di realmente fondato. Ci fermiamo perché di fatto ci dobbiamo fermare e non possiamo andare come ora facciamo la pausa che sennò la ragazza qua mi va in coma tra un po', un shock ipoglicemico. Bene, ok, quindi ci fermiamo qua dopo su questa cosa che non è sconfortante, ragazzi, ci dice semplicemente che è illusorio e vana la ricerca del fondamento ultimo. Il fondamento ultimo non esiste. E se non esiste in queste cose qua, a cui abbiamo delegato il massimo e lo splendore del pensiero razionale, se non esiste nella matematica e nella logica, come possiamo pensare che esista nelle cose molto più complicate, fallibili e relative in cui ci troviamo tutti i giorni?